I racconti. I racconti li possiamo raccontare, i racconti dell'uomo muscoloso. C'era una volta un uomo muscoloso che già non era più un bimbo, quindi tutti i bimbi saranno tristi nell'ascoltare una storia che di solito piace ai bimbi, dove non c'è un bimbo, ma c'è un uomo che si comporta come un bimbo e fa i capricci. Un uomo muscoloso quel giorno aveva preso un po' di corrente ed era molto raffreddato, tant'è che diceva: io corrente non ne prenderò più. I loro amici dissero: uomo muscoloso, ma ogni tanto un po' di corrente la dovrei prendere. Che fai? Non vivi più. Come faremo a passare del tempo insieme a te se tu ti rifiuti a priori di prendere corrente? Provavano continuamente ad esporlo alla corrente, ma lui si rifiutava. I suoi amici allora promisero: un muscoloso, se ti esponi alla corrente e ti esporrai, ti sporgerai, ti farai attraversare alla corrente, noi dedicheremo un brano, un racconto musicale. Ma nonostante ciò, l'uomo sembra non convincersi di fare contento suoi amici, che noi siamo amici.